inizia il secondo appuntamento di questa settimana con la voce di Marco Gravelli con lo spazio di Hard & Heavy, in onda dal lunedì al venerdì su Rock FM dalle ore 20 alle ore 21. Con il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, nonché il nostro autore Simone, che anche per quest'oggi si è prodigato nel proporre e presentare la tracklist che andremo a seguire proprio con il primo prodotto che arriva dall'America. Una band AOR nata negli anni 70, attualmente non più in attività, si chiamavano Prophet. Arrivano dal New Jersey, vi dicevo, nati negli anni 70 come cover band, si fecero notare all'inizio proprio all'interno della loro città suonando tantissimi concerti in piccoli e grandi club. Dopo diversi cambi di formazione cominciano a scrivere brani propri. Il risultato è l'omonimo album di debutto che arriva nel 1985 e che riceve il favore della critica, che non si risparmia ad elogiarli. Alla voce si alternano, oltre al bravo Dean Fasano dei Message, anche il batterista Polley, che successivamente entrerà nei Danger Danger come cantante. Inoltre vi è anche il bassista Metaxas. In occasione del secondo album Circle of the Moon, 1988, ci sono due cambi di formazione, con sostituzione del batterista e del vocalist, che abbandonano la band per divergenze musicali. Anche quest'ultimo album viene ottimamente accolto dalla critica, ma le vendite risultano scarse e ne consegue quindi la perdita del contratto con l'etichetta, che all'epoca era la Megaforce, una sottoetichetta distribuita dalla grande Atlantic Records. Arriverà nel 91 l'ultimo album Recycled, passato inosservato, e a quel punto arriva lo scioglimento. Curiosità è che il bassista Metaxas ha militato successivamente nella band dei Nuclear Assault, suonando nell'album Something Wicked del 1993. E allora iniziamo a livello musicale proponendo la traccia che apriva l'album e dava il titolo al loro secondo prodotto, cioè Cycle of the Moon. Sono i Prophet su Rock FM in apertura di Hard & Heavy. We'll be right back. Cycle of the Moon. Come avete potuto notare, ottima produzione, buon sound, hard rock AOR dall'America, New Jersey, erano i Prophet, che poi abbiamo detto si sono sciolti. Con loro abbiamo iniziato questa nostra prima parte dell'appuntamento consueto serale di Hard and Heavy. Passiamo invece ad un prodotto che arriva sempre dal passato. Sapete che la prima mezz'ora è quasi interamente caratterizzata dalla riproposta, dalla riscoperta di gruppi più o meno noti, più o meno famosi, interessanti, di cui magari non si conosce molto o è difficile poter reperire i prodotti, sia in CD ristampati, sia i vinili. Passiamo a questa band che di album ne ha incisi diversi, ottima formazione di heavy metal, anch'essi americani, arrivano dal Texas, si chiamavano Hellstar. Anche se poi potremo seguire appunto la loro biografia, e uscirà tra breve anche una raccolta. Quindi il gruppo è nato grazie anche all'ottimo cantante James Rivera, che negli ultimi anni abbiamo visto all'opera nei Seven Witches, nei Destiny's End e recentemente anche nei Vicious Rumors. Sono nati nel 1982 e nell'83 arriva il loro primo demo. Questo gli vale un contratto e la pubblicazione del primo album intitolato Burning Stars, ed è proprio da quell'album che questa sera andremo a proporre un estratto. Arriva nel 1985 il lavoro dal titolo Remnant of War. Da segnalare che in occasione del terzo album c'è il passaggio all'etichetta Metal Blade, che pubblicherà altri due album, mentre l'ultimo del 95 viene pubblicato dalla Massacre Records. Come sentite, quindi tanti lavori alle spalle per questa formazione. Formazione che è sempre stata afflitta purtroppo da numerosi cambi, tanto che l'unico musicista ad aver militato in tutti gli album è il cantante, e meno male, James Rivera. La band si è riunita lo scorso anno con la lineup dell'album Remnant of War, eccetto il batterista, e lo scorso giugno ha stipulato il contratto con la AFM Records per la pubblicazione di due album. Infatti il 19 novembre uscirà innanzitutto una raccolta dei loro classici completamente risuonati più due nuove tracce, mentre il nuovo sesto album arriverà nell'estate del 2008. E allora, dal primissimo lavoro stampato su Combat Records, forse ormai introvabile a livello di vinile, andiamo a proporre la traccia numero 2 di quest'album. Si intitola Toward the Unknown, la formazione è quella degli Hellstar. Un estratto, la traccia numero 2 dal secondo, anzi dal primissimo lavoro di questi L-Star dal Texas. Ritorniamo invece alle cose più recenti. Uscito ad aprile su etichetta Metal Blade, il terzo album per questa gothic metal band, guarda un po', olandese. Tutte dall'Olanda arrivano. Si chiamano Autumn, composto da 6 elementi. Non manca naturalmente una voce femminile, Nienke de Jong, che aveva comunque militato sino al 99 negli Hair Enhancement. Gruppo nato nel 95, dopo un demo nel 97 e alcuni cambi di line-up, arrivano nel 2002 alla pubblicazione del loro album When Last Evoke the Curse, che li fece accostare ai grandi nomi del genere, soprattutto ai connazionali After Forever e Within Temptation, al punto che andarono come supporter di spalla, quindi ad un tour proprio dei Within Temptation stessi e Cradle of Filth. Nel febbraio di quest'anno la band ha ottenuto il contratto con la Metal Blade, che ne ha pubblicato questo terzo album, My New Time. E allora andiamo ad ascoltare proprio quello che è il brano che dà il titolo a questo lavoro, My New Time, dagli olandesi Autumn. Here. Abbiamo ascoltato gli olandesi Autumn con le note di My New Time nell'appuntamento consueto serale con Marco Gravelli su Rock FM con Hard and Heavy. Andiamo ancora indietro nel tempo, andiamo ad una band classica nel genere AOR, questo è un gruppo molto molto famoso proprio legato a quel settore, cioè i Touch. Arrivano da New York, sono stati creati addirittura, pensate, 1978 da questo tastierista che si chiama Mark Mangold e dal batterista Glenn Kickshart. Dopo aver pubblicato 3 album con il nome di American Tears, a causa di diversi cambi di formazione viene cambiato nell'ultimo, quello Touch. L'esordio con il nuovo nome arriva nell'80 con l'omonimo album che diventa un classico dell'AOR, ottiene un buon successo ed è la primissima band a suonare alla prima edizione del Monsters of Rock di Castle Donington nel 1980. La band registrò quindi il secondo album nel 82, ma si sciolse e non fu mai pubblicato sino al 1998, quando l'etichetta italiana Frontiers Record ha pubblicato un CD intitolato The Complete Works con entrambi gli album. Mark Mangold ha poi dato vita a tantissimi altri progetti di AOR. Andiamo ad ascoltare quello che era il brano che apriva questo album e anche il singolo che entrò nella top 40 delle classifiche americane e al numero 1 in quelle inglesi. Don't You Know What Love Is? Si chiamano Touch. stato numero uno in Inghilterra nella top 40 americana questa Don't You Know What Love Is per la formazione dei Touch di Mark Mangold e di Glenn Kickhart. E andiamo a concludere la prima parte di questa sera di Arden Davy con un'altra band che ci porta ancora al settore più metal, ancora una volta dall'America. Un gruppo che propone classico heavy metal stile Iron Maiden proveniva dalle Hawaii, una cosa particolare. C'era anche un'altra band che si chiamava proprio Hawaii. Nati nel 1980 come cover band con il nome di Sobre, in occasione della pubblicazione del loro primo album hanno cambiato il nome in Sacred Rite. Hanno suonato con gli Alcatraz, con i Quiet Riot, con Ozzy Osbourne. La loro discografia comprende 3 album in studio e ben 4 raccolte. L'ultima è stata un live album con vecchio materiale pubblicato nel 2005. Dal lavoro uscito nel 1984, che si intitola The Ritual, andiamo a proporvi il pezzo Teaser. La produzione affidata alla stessa band, Sacred Rite, usciva per questa piccola etichetta chiamata Megaton Records. Quindi andiamo a proporre agli americani Sacred Rite con le note di questa Ritual. Take it. con questa power metal band che arriva dalla Finlandia. Diamo lo start e l'inizio alla seconda parte del nostro cammino musicale di Hard and Heavy per questa serata su Rock FM insieme a Marco Gravelli. Si chiamano Olympos Mons, l'album nuovo si intitola Medieval ed è stato pubblicato dall'etichetta italiana di Milano, la Scarlet Records. È il secondo album di questa formazione. Dopo il loro primo demo dal titolo Seven Seas, che fu ben accolto dalla critica, ottennero un contratto con l'etichetta tedesca LMP, che ne ha pubblicato il debutto. L'album si intitolava Conquistador, uscito alla fine del 2004. Nel febbraio di quest'anno hanno stipulato un contratto proprio con la nostrana Scarlet Records, che ne ha pubblicato questo secondo lavoro. 10 brani, masterizzati dal celebre Mika Jussila presso i suoi studi di Helsinki. Arriviamo ora alla prima anteprima, giochiamo un po' con le parole, con il gruppo degli Amorphis, formazione molto nota. Questo album uscirà alla fine di questa settimana, il 31 di agosto, ed è l'ottavo album per quest'altra band, anch'essa finlandese. Il titolo è Silent Waters. Ricordiamo che la band nasce nel 90, creata dal chitarrista. In principio proponevano del death doom metal. In seguito, nel corso degli anni, il loro sound si evolve, ed importante è stato il 1995 con l'ingresso del cantante Pasi Koskinen, che ha lasciato poi la band nel 2004 per dedicarsi completamente ad un altro gruppo, cioè gli Ayattara. Il suo posto è stato preso da Tommy Hudson, proveniente dai connazionali Nevergreen, che successivamente hanno cambiato nome in Sinistra. Il nuovo lavoro, questo che esce appunto il 31 di agosto, presenta 10 tracce. Vedrà nuovamente la presenza del cantato gutturale insieme a quello pulito, che era già riapparso nel precedente album. Si tratta di un concept, si basa nuovamente sul Kalevala, e curiosità è che per la stesura dei testi dei brani si sono avvalsi della collaborazione di un amico pittore, un amico del cantante. Per quanto riguarda invece la copertina, il lavoro è stato affidato nuovamente all'esperto Travis Smith. Ma basta parole, passiamo direttamente alla musica con il brano che apre questo nuovo Silent Waters. Si chiamano Amorphis, il pezzo è Within the Incantation. Thrown at the wall, came to me from my father. I keep a peace as a token of myself for you to have and mourn over. Massiccio, questo è un album molto bello che vi consiglio, ripeto, esce questo weekend, si intitola Silent Waters, la formazione è quella finlandese degli Amorphis, ve li ho proposti in anteprima questa sera con il brano dal titolo Within the Incantation, motivo che apre questo loro nuovo album su etichetta Nuclear Blast. L'altra anteprima è la prossima, ci spostiamo dalla Finlandia all'Olanda e quando andiamo in Olanda molto spesso andiamo a proporre ad ascoltare una band di gothic metal e così è. Anteprima, visto che l'album uscirà il 7 di settembre, sarà il terzo album per gli Epica, oppure quarto lavoro se consideriamo anche The Score, che era però una colonna sonora di un film. La band è composta da 5 elementi con il cantato operistico ad opera, proprio usiamo questo termine, della splendida e brava cantante, un mezzo soprano, si chiama Simone Simmons, insieme al cantato gutturale ad opera del chitarrista, cioè Mac Jensen. La band nasce nel 2002, creata dal cantante Mark Jensen dopo aver abbandonato i connazionali After Forever. In principio il gruppo avrebbe dovuto chiamarsi Sarah Dust, però fu subito cambiato nell'attuale Epica. E come prima voce femminile era stata reclutata un'altra bonazzona, cioè la norvegese Elena Mikaelsen, soprannominata Angel, che ha cantato soltanto però nel primo demo. In seguito viene scelto proprio la giovane, bella Simone Simmons. Alle spalle hanno già 2 album. Per quanto riguarda la cantante, comparirà come special guest nel prossimo lavoro dei Primal Fear e nel prossimo album degli Aerion. Oltretutto li potrete rivedere dal vivo in Italia, ci sono già stati qualche anno fa, torneranno il 19 di novembre a supporto dei Sonata Artica e come altro special guest ci saranno i Ride the Sky. Li ascoltiamo allora in anteprima assoluta in Arden Devi, sono gli Epica dall'album Divine Conspiracy, il pezzo è Menace of Vanity. gothic metal del quintetto olandese degli Epica, in uscita prima addirittura sul mercato americano. Esce quest'oggi sul mercato americano, il 7 di settembre invece su quello europeo, etichetta Nuclear Blast, altra anteprima che potete e avete potuto ascoltare questa sera nello spazio di Arden Devi. Abbiamo detto allora che gli Epica con i Sonata Artica e i Ride the Sky saranno dal vivo il 19 di novembre a Milano. E chi sono i Ride the Sky? È la prossima band che andiamo ad ascoltare e sveliamo un po' che cosa si cela dietro questo nome. È un gruppo composto da 5 elementi creati lo scorso anno dal batterista Uli Kusch, ex Gamma Ray, ex Halloween e per ultimo Masterplane, insieme al cantante Bjorn Jansson dei Tears of Anger. Tutto nacque quando Bjorn seppe della fuoriuscita di Uli dai Masterplane, quindi lo invitò a suonare nel nuovo album dei Tears of Anger. Dopo aver però sentito le 4 tracce del demo, a sua volta Uli fece sentire a Bjorn qualche traccia composta da lui. Nasce così l'idea di creare questo nuovo gruppo e come nome si sono affidati ad una storica canzone degli Halloween che suonavano ogni tanto durante le registrazioni del demo, cioè Ride the Sky. Demo che gli ha valso subito un contratto con la Nuclear Blast, ne ha pubblicato a metà di agosto, esattamente il 17, questo album di debutto dal titolo New Protection, dal quale quest'oggi andiamo ad ascoltare la traccia che apre l'album, nonché singolo e videoclip, New Protection. Manca nemmeno questa sera l'appuntamento con le Metal News, preparate come sempre dal nostro autore Simone. Si parte con gli Exodus. Sarà ancora la Nuclear Blast a pubblicare il nuovo album della thrash metal band americana degli Exodus. Il titolo è The Atrocity Exhibition, Exhibition A. Ci saranno 9 brani, dovrebbe uscire entro l'anno perché è già pronto dalla fine del mese di luglio. Su dichiarazione della band stessa, verrà pubblicato un altro lavoro con il titolo di Exhibit B. L'album è stato prodotto dal celebre Andy Snip. Uscirà invece il 22 di ottobre il nuovo live album per gli svedesi Opeth. Si tratta del concerto, registrato il 9 di novembre del 2006, presso il Cabman Roundhouse di Londra, data che vedeva il gruppo di supporto ai Paradise Lost. Il titolo sarà The Roundhouse Tapes e sarà un doppio CD. È inoltre prevista la versione in DVD, che uscirà all'inizio del 2008 con molte interviste ai fan, interviste alla band e foto scattate durante il concerto. Sarà il singolo Revolution Begins ad anticipare il prossimo nuovo album per gli svedesi Arch Enemy, il cui titolo sarà Rise of the Tyrant. Il singolo comprenderà inoltre due tranche che non saranno presenti nell'album, un motivo inedito ed una cover dei Queensryche, che è appunto una cover dei Queensryche più una traccia live. Parliamo dei brasiliani Shaman. Ritornata di recente al vecchio nome, appunto, la band brasiliana dell'ex batterista degli Angra, Riccardo Confessori, ha firmato con la Scarlet Records. L'album, che sarà il terzo della loro discografia ed il primo col nuovo vocalist Tiago Bianchi, che ha sostituito André Matos, si intitolerà Immortal. Conterrà 10 brani, verrà pubblicato in novembre. Verrà realizzato anche il singolo e il video di In the Dark. Vixen, 8 di ottobre, l'uscita del CD live per la storica band femminile, si intitolerà Live in Sweden e si tratta del concerto tenuto in occasione dello Sweden Rock Festival del 2005. Mystic Prophecy, pronti per tornare sul mercato i greci capitanati dal cantante e produttore Liapakis. L'album si intitolerà Satanic Curses ed è stato mixato, masterizzato da... presso i celebri Friedman Studios di Göteborg, che di recente sono stati acquistati dagli In Flames. E chiudiamo con gli Advance. Parliamo di loro perché la power metal band è tedesca e da poco uscita con il settimo album intitolato 7, con un nuovo cantante, e ha reso noto anche il cambio di bassista e batterista rispetto a quando avevano registrato il disco. Riguardo al nuovo batterista, sull'album ha suonato Mark Cross dei Metallium ed ex Helloween e a causa dei suoi impegni con i Farwind è stato sostituito da Alex Landeburg, che ha già suonato dal vivo con gli Annihilator. E allora, dal nuovo album degli Advance, andiamo a proporre le note di Cold as Ice. intitola 7, scritto in numero romano, quindi la V e la doppia barrettina, doppia I. The Advance con il brano dal titolo Cold as Ice, singolo anche scelto per rappresentare questo nuovo lavoro. E chiudiamo con l'ultima band in questione. Sono finlandesi, però arrivano da Helsinki, poi si sono trasferiti da prima in Svezia, dove hanno pubblicato il primo album, e poi sono andati in Inghilterra, da lì hanno pubblicato il secondo lavoro. Hanoi Rocks, questo è il nome del gruppo. Dopo 5 album la band si sciolse in seguito alla scomparsa in un incidente di auto causato da Vince Neil dei Motley Crue, che era alla guida. Al suo fianco c'era il batterista della band e purtroppo è morto. La band quindi si scioglie, però il cantante Michael Moore dapprima intraprende una carriera solista e poi con il chitarrista McCoy decide nel 2002 di riformare la band. Da lì sono stati pubblicati altri album sino a questo che uscirà il 5 di settembre ed è l'ottavo lavoro. Il singolo che vado a proporvi si intitola Fashion, è già arrivato al numero 1 nelle posizioni delle classifiche nazionali, appunto svedesi. Vi lascio con loro, noi ci ritroveremo domani sera con un altro appuntamento di Hard & Heavy su Rock FM dalle 20 alle 21. Grazie per avermi seguito, grazie a Simone per tutti i testi, grazie al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. A domani sera, ciao da Marco Gravelli. That'll put you worse off. Every evening, London's receiving a beat machine man made and so deceiving. We got the groove now, we'll show the world how to wake this planet up. Scheme, just an empty daydream.